Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È il 23 marzo del 1977. Ci troviamo in California, più precisamente a San Clemente. Qui c'è una villa lussuosa che si affaccia sul Pacifico. Una villa costruita negli anni 20 in perfetto stile spagnolo dall'architetto Carl Lindbom, che l'ha disegnata sul modello di una casa di campagna di un suo amico a San Sebastián. Qui, all'interno di questa splendida casa, si fanno i preparativi per allestire un set televisivo. Il set per un'intervista. Una grandissima produzione. Si tratta di un set scarno, o meglio, sobrio, studiato in maniera assolutamente funzionale. Il format, come detto, è quello di un'intervista, di un duello all'americana tra un giornalista e un uomo politico. Non è però un banale talk show, né una semplice, magari anche efficace o pungente, inchiesta televisiva. È un vero e proprio evento che lascerà un segno indelebile sulla storia americana, uno straordinario esempio di quello che il giornalismo dovrebbe essere. Quando si spegneranno le luci e il confronto tra i nostri personaggi di oggi avrà inizio, la troupe e tutti gli uomini presenti rimangono col fiato sospeso. Si respira un'aria elettrica. Gli americani vedranno indifferita questa incandescente sfida. Noi invece andiamo a scoprire chi sono i nostri due contendenti, iniziando dall'uomo politico, che è il più controverso e discusso presidente della storia degli Stati Uniti d'America. Il suo nome è Richard Nixon. Richard Nixon. Uno degli ambiti su cui si dice che gli americani abbiano tanto da insegnare al mondo è il giornalismo. Il giornalismo d'inchiesta, che vede reporter della carta stampata, della TV, della radio, scovare le contraddizioni e i contrasti che si annidano nella politica e nella società, ha sempre avuto una funzione fondamentale, non così scontata come a prima vista potrebbe sembrare: fare emergere la verità. La Seconda Guerra Mondiale cambia completamente gli orizzonti della politica americana. La nascita dei due blocchi internazionali, quello russo e quello occidentale, permette ai conservatori e ai repubblicani di costruire intere campagne elettorali sull'anticomunismo. Nel 1953 Dwight David Eisenhower viene eletto presidente. Era stato comandante delle truppe alleate in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli Stati Uniti si votano completamente al conservatorismo, all'anticomunismo. La feroce politica di accuse a ruota libera del senatore McCarthy porta a un clima da caccia alle streghe. In questo scenario completa la prima tappa della sua folgorante carriera politica Richard Nixon, che viene scelto come vicepresidente dell'amministrazione Eisenhower. Sono felice dell'opportunità concessami di contribuire alla causa repubblicana. E quello che io e Eisenhower faremo sarà di ottenere una grande vittoria per il Partito Repubblicano il prossimo novembre. Ma sarà una grande vittoria non solo per il Partito Repubblicano, ma ciò che più conta è che sarà una vittoria per l'America e per le persone libere di tutto il mondo. Nixon ha già un'idea molto chiara dello Stato e della politica, come ricorda il suo biografo Ralph De Toledano. Era un uomo che non aveva un'ideologia definita o dei principi di riferimento. Già allora gli Stati Uniti per lui erano semplicemente la Repubblica di Nixon. Insomma, all'inizio degli anni 50 Richard Nixon sale ai vertici della politica americana, destinato a segnarla per oltre un ventennio. Nixon è nato il 9 gennaio 1913 in California. Laureato in legge alla Duke University di Durham, nel North Carolina, con voti brillanti, partecipa alla Seconda Guerra Mondiale nella Marina, distinguendosi nella campagna del Pacifico contro i giapponesi. Nel 1946 riesce a farsi eleggere alla Camera dei Rappresentanti per il Partito Repubblicano, mettendosi in luce per il suo ferreo anticomunismo e per il suo netto conservatorismo. Nixon è destinato ad essere uno di quegli uomini politici che, spesso confondendo i limiti dei propri interessi con quelli dello Stato, sono sempre in bilico tra tempestiva capacità d'azione e abuso di potere. Un uomo di forte personalità, che segna un'epoca e che suscita continuamente vespai di polemiche. Così, quando Eisenhower lo sceglie come vicepresidente, il New York Post pubblica un articolo secondo cui alcuni contribuenti della campagna elettorale avrebbero costituito un fondo segreto in contanti per le spese personali di Nixon. Il vicepresidente però si difende con energia, comparendo in televisione il 23 settembre 1952 con un intervento passato alla storia. Nixon, prima di tutti, capisce che la televisione è indispensabile per fare politica. Cari cittadini degli Stati Uniti d'America, stasera non vi parlo solo da vicepresidente. Vi parlo soprattutto da cittadino la cui onestà viene messa in discussione dai media. Negli anni della presidenza Eisenhower, Nixon interpreta la carica di vicepresidente alla sua maniera e quindi dà alla carica un peso e un'importanza che non avevano mai avuto prima. In particolare, Nixon dimostra grandissime abilità in politica estera. Nel 1959, durante un viaggio in Unione Sovietica, il vicepresidente incontra Nikita Khrushchev, il segretario generale dell'Unione Sovietica, per celebrare a Mosca l'inaugurazione di una storica esposizione nazionale americana. I due, davanti alle telecamere, danno vita al memorabile dibattito della cucina. In una cucina americana esposta nell'ambito di quella manifestazione, Nixon e Khrushchev discutono di capitalismo e di comunismo. Vice President Nixon escorts Soviet Premier Khrushchev on a preview of the United States Fair at Skolniki Park in Moscow. Il dibattito si svolge durante un periodo di crescente tensione della Guerra Fredda, iniziato con il lancio dello Sputnik nel 1957. Il confronto tra i due viene registrato su videonastro a colori, una nuova tecnologia di cui gli Stati Uniti erano pionieri e che durante il dibattito Nixon non manca di evidenziare come uno dei molti progressi degli americani, insieme alle lavastoviglie, i tagliaerba, le Cadillac convertibili, i colori per il trucco, il rossetto, le scarpe con i tacchi a spillo, gli hi-fi, i fast food e la Coca-Cola. Khrushchev mette in risalto l'attenzione dei sovietici per le cose che contano piuttosto che per il lusso e chiede sarcasticamente al rivale se ci sia già una macchina che mette il cibo in bocca e lo spinge giù. Nixon risponde dicendo che almeno la competizione è solo tecnologica e non militare e auspicano che gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica possano diventare più aperti gli uni con l'altro. Nel 1960 Nixon è il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. Il suo avversario si chiama John Fitzgerald Kennedy. Nixon appare in vantaggio all'inizio della campagna elettorale. Ha inoltre imparato a utilizzare i media, quello televisivo in particolare, come nessun altro. Ma davanti a sé ha un avversario che, in quanto ad appeal e presa sulle folle, non ha eguali. Un avversario che buca lo schermo e che nei duelli televisivi, imprescindibili nelle campagne elettorali americane, letteralmente lo distrugge. Quando nel 1962 Nixon perde anche la corsa elettorale per diventare governatore della California, sembra politicamente morto. La sua incredibile resurrezione avviene nel 1968. È un momento di confusione nel paese. Dopo l'assassinio di JFK, dopo il brutale omicidio di Bob Kennedy, il probabile candidato democratico alle presidenziali, e vedendo ritirarsi dalla corsa il presidente in carica, Lyndon Johnson, Nixon parte in contropiede con una campagna elettorale indirizzata a quella maggioranza invisibile di americani che poco tollerano la controcultura hippie e le manifestazioni pacifiste. E contro ogni pronostico vince, tornando a dominare la scena politica americana. Ancora una volta il suo rapporto con i media televisivi appare fondamentale, nonostante l'ostilità dichiarata di molti giornali. E per Nixon arriva il momento del giuramento. You, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear. I, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Of President of the United States. And will to the best of your ability. And will to the Dopo il primo mandato, infatti concluso nel 72, viene rieletto vincendo le elezioni del 1973 con un margine record del 24% sul democratico McGovern. E arriva così il secondo giuramento. So help you God. So help me God. Durante il primo mandato, Nixon ottiene alterni risultati in politica estera, soprattutto nei rapporti con l'Unione Sovietica e con la Cina. In Vietnam, invece, pur avendo promesso un rapido ritiro in campagna elettorale, finisce per acuire lo scontro e aumentare il numero di morti. Il peggio, però, viene fatto in Cambogia. Nel 1970, infatti, Nixon ordina un'incursione militare in Cambogia per interrompere i rifornimenti di armi all'esercito sudvietnamita, ma fa strage di civili. Quando scoppiano ulteriori proteste nei campus delle università americane, Nixon ordina una repressione brutale che porta all'uccisione di diversi studenti durante una manifestazione alla Kent State University. I soldati della Guardia Nazionale, infatti, sparano una raffica di mitra sui giovani manifestanti. Inoltre, l'incursione americana ha l'effetto collaterale di rafforzare la protesta degli Khmer Rossi, che prenderanno il potere in Cambogia nel 1975. Il massacro della Kent University entra nell'immaginario collettivo come il simbolo del conservatorismo di Nixon e viene immortalato da decine di artisti in canzoni, fotografie, quadri, documentari. Un altro effetto nefasto della presidenza Nixon in politica estera è quello di sostenere in America Latina governi repressivi che difendano gli interessi americani. È il caso di Augusto Pinochet in Cile. In politica interna, Nixon si mantiene in equilibrio tra il liberalismo tipicamente repubblicano, adottando misure a favore del libero mercato, e allo stesso tempo non si tira indietro quando sente come necessaria la statalizzazione di alcuni settori dell'economia. È però la concezione dello Stato stesso da parte di Nixon a destare impressione. Il presidente si vede infatti come una sorta di imperatore. Spesso non vede limiti alle proprie possibilità di decisione. Così utilizza per scopi personali i servizi segreti, facendo spiare avversari politici, nemici e anche collaboratori, stravolgendo la Costituzione, utilizzando in maniera spregiudicata le risorse dello Stato. Gli Stati Uniti però sono un paese con una caratteristica unica. Riescono a produrre efficaci anticorpi in grado di limitare e ribaltare situazioni problematiche come questa. E la recente elezione di Barack Obama ne è un esempio. Così anche nel 1974 per Richard Nixon i nodi vengono al pettine. La sua resa dei conti si chiama Watergate. Il Watergate Complex è un complesso di edifici che si trova a Washington, tra i quali spicca il Watergate Hotel. Qui, nel 1972, ha sede il quartier generale del Partito Democratico. Qui, durante la campagna elettorale del 1972, Nixon fa allestire un'articolata operazione illegale di spionaggio interno per comprendere le strategie dei suoi avversari. E lo fa nonostante un vantaggio impressionante nei sondaggi. Paolo Garimberti, giornalista e presidente della RAI, ci spiega i motivi. Due ossessioni. Una era quella dei comunisti. Lui pensava che, lo ha detto a un certo punto, l'aveva sentito, non possiamo consegnare questo paese ai comunisti. La seconda ossessione era quella di perdere, di essere di nuovo umiliato dopo 4 anni di presidenza. Lui voleva 8 anni di presidenza. Il 17 giugno 1972 Frank Wills, una guardia di sicurezza che lavora al Watergate, contatta la polizia di Washington perché trova forzata una porta di sicurezza del parcheggio sotterraneo dell'albergo. Vengono arrestati 5 uomini per essere entrati nel quartier generale del Comitato Nazionale Democratico e aver messo alcune microspie telefoniche e fatto delle fotografie. Uno di loro, James McCord, è nell'entourage del presidente. La Casa Bianca tenta di insabbiare la cosa riducendola a un semplice furto nato per iniziativa personale di McCord. Ma le indagini di 2 reporter del Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, riescono ad andare a fondo, anche grazie al contatto con Gola Profonda, un informatore misterioso a livelli molto alti. Solo nel 2005 si conoscerà la sua identità. William Mark Felt, numero 2 dell'FBI. Nixon lo sapeva e gliel'avevano detto che l'informatore probabilmente era Felt, l'informatore di Woodward e Bernstein, soprattutto di Woodward, di cui Felt era amico personale. E a un certo punto Nixon dice ai suoi assistenti più diretti: bisogna che quel bastardo si tolga di mezzo, però non c'è mai riuscito. Nonostante la vittoria elettorale e l'inizio del secondo mandato, il 1973 e il 1974 sono anni terribili per Richard Nixon. Mentre tenta in ogni modo di arrestare le indagini, informazioni sempre più imbarazzanti si diffondono e sembrano inchiodarlo. Il momento di massima tensione si raggiunge quando viene rivelato da un consigliere del presidente che alla Casa Bianca esiste un sistema di registrazione che mette su nastro automaticamente tutto ciò che viene detto nello studio ovale. Il procuratore che si occupa delle indagini chiede immediatamente di ascoltarli, ma Nixon rifiuta avvalendosi del privilegio dell'esecutivo, una sorta di immunità presidenziale. Inoltre, il presidente, che si dichiara un perseguitato della giustizia, riesce a far rimuovere il procuratore. Ma la richiesta di visionamento dei nastri arriva alla Corte Suprema e per il presidente non c'è scampo. Mentre tra condanne e defezioni i collaboratori più stretti di Nixon cadono, il presidente consegna i nastri e, prevenendo l'impeachment, rassegna le dimissioni. L'interesse della nazione viene prima di qualsiasi altra cosa. Per cui, dopo essermi consultato con il mio staff, a causa della questione Watergate, non avendo più il supporto del Congresso che ritengo necessario, mi vedo costretto a rassegnare le mie dimissioni. L'America ha bisogno di un presidente a tempo pieno. Io non posso esserlo, dovendo difendermi dalle accuse che mi sono state rivolte. L'imperatore abbandona il trono, si ritira dopo anni di battaglie, lasciando dietro di sé una scia cupa di misteri e di domande irrisolte. Dietro quali e quanti episodi indecifrabili della politica americana c'è la sua lunga mano? Difficile scoprirlo, perché il suo successore, Gerald Ford, gli accorda il perdono ufficiale, impietosito da una trombosi acuta che coglie Nixon appena dopo le dimissioni. Il protagonista di uno dei più grandi scandali degli States rimane senza processo. Il destino, però, lo costringerà ad affrontarne uno, se possibile, ancora più impegnativo, davanti a un giudice ben più severo, il pubblico televisivo. Tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati racconta uno dei confronti televisivi più famosi di tutti i tempi. Uno scontro che riscriverà la storia della politica e della comunicazione americana. Siamo nel 1977, in California. L'ex presidente Richard Nixon spera di rilanciare la propria immagine da quell'intervista, dopo il fango dello scandalo Watergate. Il suo interlocutore, che Nixon ritiene un avversario facile perché un semplice presentatore, si rivelerà ben più duro di qualsiasi giornalista. Il suo nome è David Frost. David Frost. Scopriamo chi è. David Paradine Frost nasce in Inghilterra il 7 aprile 1939 a Tenterden, un piccolo paese nella contea del Kent. Nella rigida campagna inglese, David, figlio di un pastore metodista, decide inizialmente di seguire le orme del padre. Ma David ha tutt'altro tipo di personalità. Ci sa fare con la gente, è brillante, accattivante, ammiccante, donnaiolo. E inoltre è un ottimo calciatore, tanto che le giovanili del Nottingham Forest non se lo lasciano scappare. Sì, mi era stato offerto anche un contratto come professionista, ma ho rifiutato per fare l'università. Erano altri tempi. Così David approda a Cambridge, dove studia letteratura inglese con grande successo. Dopo gli studi, Frost inizia subito a lavorare per una TV inglese. Nel 1960, Ned Sherrin, un produttore della TV, lo sceglie per il suo primo show da conduttore, That Was the Week That Was. That was the week that was. È un programma satirico che cavalca l'onda del boom di questo tipo di trasmissioni in Inghilterra negli anni 60. Va in onda sulla BBC e ha un successo tale che ne viene fatta anche una versione americana, che va in onda sulla NBC nel 1963. Sempre con Frost. Dopo i primi successi, Frost diventa uno degli uomini più richiesti della TV inglese. Affascinante, brillante, spigliato, Frost è un grande intrattenitore. Nel 1966 è il protagonista di uno dei più grandi successi della TV inglese, The Frost Report. Thank you. Il successo di David Frost raggiunge l'Inghilterra, gli Stati Uniti e l'Australia. In questi tre paesi il presentatore è l'ideatore e il conduttore di format televisivi di intrattenimento di sicuro successo. Le sue interviste a personaggi famosi sono divertenti e ritmate. Ma David è il re di un certo tipo di televisione, l'intrattenimento puro, raffinato, ma lontano dal grande giornalismo d'inchiesta che sarà nel suo destino. Destino che Frost intravede per caso una sera dal suo camerino. Ne è attratto come da un magnete. Da una TV posta nel backstage di un suo show, vede infatti il discorso d'addio di Nixon. L'interesse della nazione viene prima di qualsiasi altra cosa. Per cui, dopo essermi consultato... Frost ha un'idea. Un'intervista con quell'uomo, quanti telespettatori potrebbe portare? Con quell'uomo in grado di usare così bene le telecamere, spazzato via da un mare di fango, ma ancora pronto a lottare. David capisce che quella è la sua strada. Un duello televisivo con Richard Nixon. Sarebbe anche la sua grande occasione per dimostrare al mondo che è anche capace di affrontare situazioni più serie e impegnative, che è un brillante anchorman in grado di indossare i panni del giornalista. Si lancia nel progetto. È la sua occasione d'oro. Frost, insieme al produttore televisivo John Burt, parte alla carica. Prende contatto con l'entourage di Nixon, il cui biografo, Irving Lazar, è convinto che un'intervista televisiva potrebbe riaccendere proficuamente i riflettori sull'ex presidente. Il bel film uscito l'anno scorso e diretto da Ron Howard, dal titolo Frost Nixon, ci aiuta a ricostruire la trattativa. Dunque, $200,000... Spero che non li stia tirando fuori di tasca sua. Mi creda, vorrei avere tasche così profonde. Devo intestarlo a... Irving Paul Lazar. Richard M. Nixon. La cifra complessiva per la produzione si attesta sui $2 milioni. Una cifra spropositata, che diventa un azzardo nel momento in cui tutti i maggiori network televisivi dei principali paesi anglofoni si tirano indietro. Nessuno vuole scommettere un dollaro su quel presentatore che del giornalista proprio non ha l'aria. C'era sfiducia nei miei confronti. Ero considerato un grande intrattenitore. Tutti erano convinti che le interviste a Nixon, presentate come un duello, sarebbero state una disfatta, che Nixon mi avrebbe portato dove voleva lui. Era un abile oratore e io non ero un giornalista. Frost così raccoglie soldi da sponsor e amici e si indebita. Lavora duramente con uno staff composto da due giornalisti politici, Bob Zelnick e James Reston Jr., per raccogliere informazioni e per documentarsi. Si accorda con lo staff di Nixon $600,000 di ingaggio all'ex presidente più il 20% dei proventi di un'eventuale messa in onda. 4 giornate di intervista, divise per temi. Al Watergate, su cui Nixon si continua a proclamare innocente, sarà riservata l'ultima. Sottoscritto l'accordo, lo scontro sarà senza esclusione di colpi, senza possibilità di sottrarsi. All'ultimo viene cambiata anche la location, non più la residenza di Nixon. Il set all'ultimo viene spostato nella casa di due amici dell'ex presidente. Si accendono i riflettori. La battaglia può iniziare. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati raccontiamo un duello senza esclusione di colpi che si consuma davanti alle telecamere. Uno di fronte all'altro, David Frost, un presentatore che fino a quel giorno aveva condotto solo show leggeri di intrattenimento, e Richard Nixon, ex presidente degli Stati Uniti, colpito dallo scandalo Watergate, mai dichiaratosi colpevole, mai processato, bramoso di riprendere il suo posto nel cuore della politica americana. Quel giorno è il 23 marzo 1977. Si accendono i riflettori, partono le telecamere. Lo scontro di destini ha inizio e nulla sarà più come prima per entrambi i contendenti. Signor Nixon, la domanda che tutti gli americani vorrebbero farle è: perché non si è liberato di quei nastri? Il bel film di Ron Howard, Frost Nixon, ci viene in aiuto per ricostruire la vicenda. I due contendenti hanno stabilito la divisione degli argomenti dell'intervista. Il primo giorno dovrebbe essere dedicato all'infanzia e agli inizi di Nixon. Frost prova il contropiede e con quella domanda prova a spiazzare il suo interlocutore, ma fallisce. Beh, signor Frost, sono sorpreso dalla sua domanda, visto che abbiamo siglato un accordo contrattuale che stabilisce che avremo trattato il Watergate nella nostra ultima registrazione. Ma se i suoi spettatori hanno veramente questa grande preoccupazione, allora forse dovrei rispondere brevemente. Nixon dimostra una capacità unica di cambiare discorso, di evadere, di portare il suo interlocutore dove vuole. Per Frost sarà durissima. Pare inoltre che Nixon, conoscendo benissimo i trucchi del mestiere della politica e dei dibattiti televisivi, avesse stuzzicato il suo avversario prima dell'inizio delle registrazioni con giochetti psicologici finalizzati a farlo innervosire. Le sue scarpe. Sì, sono italiane, è vero? Le mie scarpe immagino di sì. Sì, però è interessante. Lei non le trova effeminate? No. Anni dopo, Frost ha ricordato così quei momenti di tensione. Nixon era davvero un professionista del dibattito. Sapeva come far salire la tensione, come provocarti con piccoli gesti, frasi dette nei momenti meno opportuni. E ostentava sempre sicurezza. La sua tensione si percepiva unicamente dal labbro superiore. Il labbro superiore di Nixon ha un celebre problema di sudorazione che emerge quando l'ex presidente è sotto tensione. Celebre perché sono in molti a sostenere che sia stata la causa della sconfitta nella volata elettorale del 60 contro JFK. Durante lo scontro televisivo, infatti, Kennedy lo mette in difficoltà. Nixon ostenta sicurezza, ma la sudorazione tra naso e bocca, evidente nei primi piani, lo tradisce. Durante le prime tre giornate di intervista con Frost, Nixon non suda. Rigira il suo interlocutore come un guanto, domina. Nel clan di Frost regna lo sconforto. Il momento più basso si raggiunge quando Frost chiede all'ex presidente del Vietnam e della Cambogia. Crede di prenderlo in contropiede, ma Nixon dà ancora una volta prova di straordinaria capacità oratoria e annienta il suo avversario. Ogni qualvolta vado col pensiero alla Cambogia, ricordo un operaio di Filadelfia che mi disse: «Ho una sola critica da muoverle. Se fosse entrato prima, avrebbe requisito il fucile che poco dopo in Vietnam ha ucciso mio figlio». E lei mi sta chiedendo se mi sono pentito di essere entrato in Cambogia? La risposta è no. Anzi, mi pento di non esserci entrato prima. La riscossa, improvvisa, secca, di Frost, arriva al quarto round e Richard Nixon va al tappeto. La ragione per cui non esiste nessuna prova è che 18 minuti delle intercettazioni sono stati cancellati. Noi però abbiamo ritrovato una conversazione con Charles Colson, mai stata pubblicata, in cui si fa riferimento ai minuti cancellati. Questa trascrizione dimostra chiaramente che molte delle cose che ha raccontato al paese sono menzogne. Lo staff di Frost ha infatti trovato uno stralcio di registrazione di un'intercettazione che non era mai emerso prima e che inchioda una volta per tutte Nixon. Non può più negare. L'ex presidente, messo alle strette, si lascia sfuggire una frase che passa alla storia e che rivela la sua visione semi-monarchica della democrazia. Nel momento in cui è il presidente a farlo, non c'è nulla di illegale. Richard Nixon va al tappeto. Ho commesso degli errori. Ho dato loro una spada e loro me l'hanno conficcata e rigirata nella ferita. E io al loro posto avrei fatto lo stesso. Le interviste mi hanno cambiato la vita. Sono state comprate da televisioni di tutto il mondo e sono state l'evento televisivo giornalistico più seguito del mondo. Da allora nulla è stato come prima. David Frost continua a fare brillantemente il suo lavoro in Inghilterra, dove è stato nominato baronetto da Sua Maestà. E Nixon? L'ex presidente ha concluso con quell'intervista la sua carriera politica. Si è ritirato subito dopo nella sua casa californiana e lì ha vissuto con la moglie fino al 1994, quando un infarto l'ha stroncato all'età di 81 anni. Oggi gli Stati Uniti lo ricordano soprattutto per il Watergate, tanto che ogni scandalo americano viene bollato proprio con il suffisso Gate, ma viene soprattutto citato in tutto il mondo come il politico che per ben due volte è stato vittima del grande giornalismo d'inchiesta, un meccanismo di anticorpi necessario che ogni paese democratico e moderno dovrebbe possedere. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.